in viaggio per gli Stati Uniti, a cura di Viaggi di Cultura di Bologna. Los Angeles, Hotel Bonaventure. L'immagine di Los Angeles è un'immagine difficile da capire. In tanti sostengono che sia una delle più brutte città degli Stati Uniti. Eppure io ricordo che quando arrivai la prima volta in questa città nell'autunno del 1979, io ne rimasi affascinato, ammaliato. Era del tutto evidente che la città non esisteva. La città, come poi avrebbe detto un architetto di cui ho letto il testo, vive tutta sulla strada. Le case non sono nulla nella città di Los Angeles. Gli edifici sono spesso dimessi, difficilmente apprezzabili. Sembra quasi di essere in un'immensa periferia senza fine che parte da un centro che non esiste. Ci si mette un po' a capire che a Los Angeles il centro della città sono le strade. Queste strade che gli abitanti della città percorrono continuamente in lungo e in largo, su cui trascorrono gran parte della loro vita e che hanno finito col diventare delle vere e proprie icone. Alcuni dei film più importanti sulla città di Los Angeles sono sulle strade di Los Angeles. Quando io arrivai a Los Angeles in quella metà del 1979 furono le strade ad affascinarmi, ma certamente dopo un poco inevitabilmente mi chiesi: ma come si vive in una città che è tutta nelle sue strade e che è solo strade? Ed ovviamente ebbi la sensazione che sia anche angosciante non avere uno spazio dove ritrovarsi, non avere un luogo dove incontrare le persone. Per carità, nessuna illusione che le piazze siano qualche cosa di più di un ritrovo non necessariamente importante, però santi Dio, qualche cosa, questo qualche cosa a Los Angeles mancava. E fu mentre riflettevo a questo che mi apparve la mole un po' così dell'Hotel Bonaventure di Los Angeles, downtown. Sono praticamente 5 cilindri di acciaio e di cristallo che sono diventati una sorta di icona della città e al tempo stesso sono oggetto del disprezzo piuttosto pronunciato di un certo tipo di letteratura di qualità che giudica questo edificio bassamente commerciale e quindi in qualche modo molto poco interessante. Ma quando si entra nell'Hotel Bonaventure si capisce che l'architetto, in questo caso Portman, ha voluto fare qualcosa di diverso. E questo qualcosa di diverso non è costruire un albergo particolarmente originale, ma trasformare l'albergo nella piazza che manca a Los Angeles. Le 5 torri, è un caso che siano torri? È un caso che richiamino una città come potrebbe essere San Gimignano? Nel paesaggio urbano di Los Angeles diventano una specie di segnale. Questo è il luogo dove le persone si possono incontrare. E agli spazi di comunicazione nell'albergo di Portman ci sono dedicati piani interi, come se la persona che viene a dormire all'Hotel Bonaventure sia un accidente, qualcosa in più che è stato aggiunto, ma non di così importante. E così l'Hotel Bonaventure di Los Angeles si è lentamente trasformato per me nella piazza che Los Angeles non ha. Non è un edificio bello, forse non è neanche particolarmente importante dal punto di vista della storia dell'arte, ma parla delle ferite della città. Parla dell'angoscia di essere in una città che non ha punti di ritrovo riconoscibili e del bisogno dell'architetto di creare un centro, un luogo dove le persone si incontrano. E quindi in qualche modo questo per me si è trasformato in una sorta di piazza maggiore, il luogo dove le persone vanno sapendo che troveranno altre persone come loro, intenzionate ad uscire dalla solitudine di questi grandi spazi urbani. Viaggi di Cultura tornerà con un nuovo episodio di Un viaggio per gli Stati Uniti la prossima settimana.